Si sentì la voce du vento, stanotte arrivarica, chi sciuscia accarezza stu mari, poi già se si bagna da muri, io sento a bulare in to vento, a to voci vesciorni me, e niente mi poti bastare, e ora io voglio tornare, castani sedda tu, e cialallerulla, tu castani sedda da muri, muri mi fa. Castani sedda tu, e cialallerulla, tu castani sedda da muri, pazziari mi fa. Senti la voce du vento stanotte a chianarica, chi sciuscia carizza stu mari, e u cori mi trema da muri, io sento bramare in to vento, a to voci vesciorni me, e niente mi poti bastare, e ora io voglio restare, i castani sedda tu, e cialallè tu castani sedda da muri, muri mi fa. Castani sedda tu, e cialallerulla, tu castani sedda da muri, pazziari mi fa, pazziari mi fa, pazziari mi fa.